nel settembre del 1909 Franz Kafka, i fratelli Otto e Max Brod erano a Riva del Garda. A Franz non era ancora stata diagnosticata la tubercolosi che lo ucciderà nel 1924. Sono stati giorni felici, prevalentemente dedicati al riposo sulla spiaggia dei bagni della Madonnina, appena interrotti ogni tanto da qualche scappatella qua e là. Anni dopo, nel 1937, allorché dell'amico ormai scomparso Max Brod scriverà un'appassionata biografia, dirà che lì a Riva erano stati ospiti della pace e della classica semplicità del mezzogiorno, che non ci è mai più apparso così gentile e sublime. L'impressione fu dunque tanto favorevole che Kafka, 4 anni dopo, vi tornerà, in cerca di una serenità che la sua prima disavventura amorosa aveva seriamente compromesso. E un paio di scappatelle furono per Brescia. La sentinella bresciana, del 9 settembre, aveva annunciato una manifestazione del circuito aereo, cui avrebbero partecipato i più famosi piloti di quell'epoca pionieristica, e i tre amici praghesi decisero che, nonostante la calca e nonostante, come dice Kafka stesso in un articolo appunto titolato Gli aeroplani a Brescia, pubblicato sulla rivista Boemia il mese dopo, ecco, nonostante che ci fosse da aver paura dell'organizzazione italiana di tali manifestazioni, nonché paura del ritardo dei treni, nonostante tutto, insomma, non potevano perdersela e ci sarebbero andati. Al di là dell'emozionata meraviglia del tecnologico e dell'ardimentoso, eravamo agli albori della mitologia aviatoria, appena 6 anni dopo il volo dei fratelli Wright, prima dell'uso che degli aerei vi era fatto nella prima guerra mondiale, eravamo anche in piena fanfara futurista, se volete. Al di là di questa emozionata meraviglia, le osservazioni più acuminate di Kafka riguardano l'italianità di contorno, la polvere delle strade, la sgangheratezza delle carrozze, di carrozze strapiene, e soprattutto l'albergo bresciano dove hanno pernottato. Il più sudicio che abbiamo mai visto, dice, anche se non esageratamente sconcio, ma un sudiciume che più non muta, che ha messo radici, un sudiciume da cui sbuca un albergatore tutto gesti e moine teatrali, che muove continuamente i gomiti, dice Kafka, e che fa passare con quelle mani di cui ogni dito è un complimento, sembra sempre nuove ombre sul proprio viso, con le stesse flessioni del corpo che, ma guarda un po', più tardi, proprio nell'aerodromo, ritroverà, individuando nella calca, l'immancabile Gabriele D'Annunzio. Non ne avessero avuto ancora abbastanza, sulla via del ritorno verso l'amata Riva, pernottano in un albergo di Desenzano. Albergo di Desenzano da dove vengono cacciati tutti e tre, assaliti da centinaia di cimici in agguato sotto le immagini sacre alle pareti, costretti così ad attendere l'alba fra brividi di freddo sulle panchine del lungo lago. Amare sull'italianità, tuttavia, non erano finite. Dall'articolo pur reticente di Kafka si evince che di scappatelle a Brescia, senza naso all'insù in cerca di aerei, ce ne fu almeno un'altra, oppure che la prima scappatella si prolungò, diciamo, per tutt'altri interessi. è sera tarda e sono sempre in tre, Franz, Max e Otto, e cercano una carrozza per andare rapidamente in una certa strada, dice Kafka. La trovano e iniziano una trattativa con il vetturino. Lui vuole 3 lire, loro gliene offrono 2. Il vetturino rinuncia, dice loro che la via è davvero troppo lontana, e fin gentilmente gli descrive il lungo tragitto che avrebbero dovuto fare, ma se lo facciano pure loro, per raggiungerla. I 3 ci rimangono male, anzi hanno anche vergogna per aver offerto così poco in cambio di un servizio tanto oneroso. Si vedono come i possidenti stranieri che si approfittano dei miseri italiani. Fatto sta che ci ripensano. 3 lire? Vabbè, affare fatto. 3 lire, vada per 3 lire. Ma una volta saliti, una volta partiti, poche decine di metri, gira un angolo, ed ecco che sono belli arrivati. E ai loro anche belli che imbrogliati. Il loro sentimento di vergogna per esosità era stato del tutto fuori luogo. E da questo amor proprio ferito prende il via una comune volontà di risarcimento. Di 3 lire non se ne parla nemmeno. Al vetturino furfante propongono una lira che a loro giudizio per un minuto scarso di trotterellata va più che bene. Ne nasce, ovviamente ne nasce un litigio, i patti non sono più mantenuti, con minacce da entrambe le parti di chiamare le forze dell'ordine, con il deprecato esborso finale poi di 1,50 lire per l'insoddisfazione ovviamente di tutti i contendenti. Così non si deve fare, commenta Kafka con una vena di pentimento razzista. Così non si deve fare in Italia. Può darsi che sia bene altrove, ma non qui. Kafka è molto esplicito per quel che concerne il pregiudizio anti-italiano. Associa la sporcizia alla gestualità, in estin della maleficità all'animo delle persone, incapaci o ladri. Non si discosta di molto dallo schema interpretativo dei turisti agiati che ieri come oggi viaggiavano e viaggiano dal nord al sud del mondo, fidando in quella sorta di involucro mentale e culturale che dovrebbe preservarli da gran parte delle possibili contaminazioni. Non da tutte, come sappiamo, perché per esempio alle contaminazioni relative alla sfera delle attività sessuali i turisti di che mondo è mondo sanno guardare con minor rigore e diciamo maggiore condiscendenza. Potrebbe pertanto non essere un caso che Kafka, nel raccontarci l'increscioso incidente finanziario e morale con il vetturino, si dimentichi di dirci quale fosse la meta di quella loro gita notturna. L'argomentazione zoppica, Kafka e gli amici praghesi soppesano l'italico con occhio pregiudizievole, ma a Riva del Garda ci stanno benissimo, sublimi, tanto che Kafka ci ritorna. L'argomentazione non zoppica, dal 1815 al 1919 Riva del Garda faceva parte dell'Austria. Che sono su Gavi?